il rispetto della vita. Il profeta Muhammad disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, i peccati gravissimi sono il politeismo, la disobbedienza ai genitori, l'omicidio, il falso giuramento. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, nel giorno della resurrezione la prima cosa ad essere giudicata sarà l'omicidio. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, l'uccisione di un musulmano, il quale abbia reso testimonianza che non c'è divinità tranne Allah e che io sono il suo apostolo, è omicidio tranne tre casi: omicidio, adulterio, apostasia. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, Allah può perdonare ogni peccatore, ad eccezione di chi muore nell'idolatria e di chi abbia commesso omicidio premeditato di un credente. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, quando due musulmani si scontrano in duello con le armi, sono ambedue sul ciglio di un abisso di fuoco. Quando uno dei due uccide l'altro, ambedue ci precipitano dentro. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, colui che si impicca si impiccherà nell'inferno e chi pugnala a morte se stesso si pugnalerà nell'inferno. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, un uomo per il dolore insopportabile di una ferita si tagliò le vene del polso e morì dissanguato. Allah l'Altissimo disse, con le sue stesse mani il mio servo si è affrettato a me e perciò gli ho negato il paradiso. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, non desiderate la morte, il buono, poiché con essa pone fine alle sue buone azioni, il cattivo, poiché con essa pone fine alla possibilità di ravvedersi. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, non gioire delle disgrazie di tuo fratello se non vuoi che Allah, dopo avergli usato misericordia, metta alla prova te. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, chi viene ucciso per la sua religione è un martire, chi viene ucciso mentre difende la sua proprietà è un martire, chi viene ucciso mentre difende la sua famiglia è un martire. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, se uno, dopo aver subito una violenza fisica, perdona, Allah lo eleva di un grado e gli perdona un peccato. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, la fede impedisce l'uccisione a tradimento e pertanto l'uccisione a tradimento non è da credente.